in primo piano. Buona giornata e buona domenica da Mauro Meazza. Vediamo come i giornali presentano le vicende avvenute ieri, avvenute diffuse anche in serata, perché come avete sentito nel corso del giornale radio, la decapitazione, la terza decapitazione eseguita dall'ISIS a danno di un cittadino scozzese cooperante da molti anni attivo anche proprio nell'aiutare le comunità musulmane, ad esempio in zone europee. La terza decapitazione è stata più o meno riferita, viene più o meno riferita dai quotidiani a seconda appunto dell'orario di stampa. Così sul Corriere della Sera: decapitato un altro ostaggio, terzo video shock, la vittima è un cooperante britannico. L'ISIS ha annunciato la decapitazione del cooperante David Haynes, 44 anni, terzo ostaggio occidentale, ucciso dai miliziani dello Stato Islamico. Il cooperante Haynes fa seguito, come ricorderete, all'esecuzione dei due giornalisti americani James Foley e Steven Sotloff. C'è anche una minaccia in questo nuovo video, appunto, perché un quarto occidentale, Alan Henning, viene mostrato nel filmato, minacciato anche lui di decapitazione. Questo sul Corriere della Sera, che poi all'altro evento della giornata di ieri, quello dell'Ecofin e delle, come dire, pressioni della UE. La UE incalza, l'Unione Europea incalza, le riforme vanno attuate, Renzi insiste, sbloccate 300 miliardi, quindi il botta e risposta in qualche modo a distanza tra il commissario Katainen e le precisazioni del governo italiano, che sostanzialmente dice sì, noi faremo le riforme, voi intanto sbloccate i finanziamenti. Alla difficile momento, come dire, alla difficile capacità di trovare un equilibrio stabile tra le richieste di riforma, di controllo dei conti pubblici e quelle di un maggiore impegno per la crescita, dedicato tra l'altro l'editoriale oggi sul Corriere della Sera, a firma di Sergio Romano, e il quale si concentra sull'aspetto appunto della mancanza di fiducia nel nostro paese da parte dei mercati, delle istituzioni comunitarie. Leggiamo qualche brano: fra i dati sull'Italia elaborati periodicamente dall'Istat e da Eurostat manca quello sulla fiducia, scrive Sergio Romano sul Corriere della Sera. Se esistesse, scopriremmo che i nostri partner, indipendentemente dalle pubbliche dichiarazioni dei loro governi e dai comunicati ufficiali alla fine di un incontro bilaterale, non credono nel nostro paese. Alcune ragioni sono storiche, le guerre fatte a metà, i cambiamenti di campo, il continuo divario tra nord e sud, gli impegni non rispettati, il familismo morale, la giungla burocratica, la democrazia clientelare, il peso della criminalità organizzata sulla vita politica e sociale. Altre sono più recenti e più importanti. Come tutti i membri dell'Unione Europea, l'Italia è passata attraverso la crisi della modernità, da quella sociale e generazionale del 68 a quella delle nuove tecnologie, dal ritorno ai mercati dopo il declino dello Stato assistenziale negli anni 80 fino alla crisi del credito nel primo decennio del nuovo secolo. Scrive Sergio Romano: gli italiani a tutta prima sembrano consapevoli della necessità di cambiare, ma il loro sistema politico, a differenza di quello dei partner maggiori, ritarda i mutamenti o finisce per annegarli in un diluvio di norme insufficienti e contraddittorie. Le commissioni bicamerali per una nuova Costituzione muoiono senza aver prodotto alcun risultato. Berlusconi fa promesse che non verranno mantenute. Ogni riforma, da quella del lavoro a quella sulla giustizia, trova sulla sua strada un partito della controriforma composto da corporazioni che difendono i loro privilegi chiamandoli ampollosamente diritti acquisiti. Le leggi, quando vengono approvate, sono redatte in modo da produrre risultati parziali e mediocri. Da Tangentopoli a oggi sono passati 22 anni, una generazione perduta. Ecco, tutto questo sul Sergio Romano. Non leggiamo l'intero editoriale, ma appunto l'editoriale di Romano prosegue dicendo: ci sono stati pure dei momenti, ad esempio nel primissima insediamento di Mario Monti o di Enrico Letta, di aperture di credito, in qualche modo di aperture di fiducia nei confronti del nostro paese, ma questi iniziali momenti di fiducia sono stati di fatto vanificati. Così l'analisi di Sergio Romano, che tra l'altro ci introduce un altro elemento che terrà banco nella settimana che si apre domani, cioè la riforma del lavoro, la discussione sul Jobs Act, come si indica con un termine, con due termini inglesi. Sostanzialmente, come abbiamo visto dai giornali e dai dibattiti di queste ultime settimane, si sta discutendo di un superamento della legge del 1970, dello Statuto dei Lavoratori, e in particolare di una ulteriore revisione, dopo quella avviata con la riforma Fornero, un'ulteriore revisione dell'articolo 18. Allora, che prospettive ci sono per il Jobs Act? Renzi in prima pagina sul Messaggero dice: Renzi, va superato l'articolo 18, il governo Jobs Act entro ottobre. E la prospettiva è quella di licenziamenti con indennità secondo l'anzianità aziendale, cioè più si è anziani in azienda e più l'indennizzo sarebbe elevato. E poi Padoan all'Ecofin: servono più investimenti. Katainen che dice: fate le riforme, non basta annunciarle. Sul Jobs Act, appunto, il Presidente del Consiglio dice sarà pronto entro ottobre, aggiunto poi supereremo l'articolo 18, e vediamo anche dalle pagine interne del Messaggero: la legge sul lavoro entro ottobre, ammoderniamo l'articolo 18, questa è la frase virgolettata del Presidente del Consiglio, il Premier adesso accelera sulla delega e sulle modifiche con i decreti attuativi, già, perché vale la pena di ricordare che comunque il voto del Parlamento è solo il mandato che viene dato al governo, che viene affidato al governo per scrivere poi i provvedimenti attuativi. Quindi non dobbiamo pensare che una volta ottenuto il sì delle Camere ci sia una immediata esecutività, un'immediata efficacia di questi cambiamenti delle norme che disciplinano il lavoro nel nostro Paese. E ha detto tra l'altro Renzi, e lo riporta appunto Alberto Gentili sul Messaggero: il settore in cui è più forte la disuguaglianza è il mondo del lavoro. Tra le altre questioni, appunto, la vicenda sulla quantità di persone che sarebbero interessate per davvero dall'articolo 18, da Palazzo Chigi spiegano: ogni anno affrontiamo 40.000 casi sulla base dell'articolo 18, l'80% di questi viene risolto con un accordo, ne restano 8.000, di questi 8.000 in 4.500 casi il lavoratore perde totalmente, in 3.500 il lavoratore vince e in 2/3 dei casi ha il reintegro. Cioè, insomma, il non detto, ma quello che si vuol far capire è: ma allora stiamo facendo tutta questa confusione per una vicenda che riguarda 3.500 persone? Ovviamente non è così, il problema è di struttura, cioè è di mantenimento di questo tipo di tutela oppure di superamento di questo tipo di tutela. Poi la quantità di casi che vengono materialmente affrontati sulla base di questo articolo 18 è un elemento importante, ma non dice completamente, appunto, non rivela completamente la portata di questa norma contenuta, lo ripetiamo, nella legge del 1970. E poi ancora, affronteremo articolo 18 con i decreti attuativi, dice il Presidente del Consiglio, e Chiosa, appunto Alberto Gentili, lontano dalle aule, dalle commissioni parlamentari, dove la componente del Partito Democratico che è contraria a questa riforma è forte. Il reintegro presumibilmente sarà sostituito con un indennizzo crescente in base all'anzianità aziendale. Ora noi ci fermiamo per qualche istante e ascoltiamo anche le previsioni del tempo. In primo piano. Bentornati di nuovo, buona domenica da Mauro Meazza. Stiamo vedendo come i fatti più recenti e anche le prospettive di quello che dovrebbe succedere, che potrebbe accadere nella settimana che si apre domani, vengono riportati dai giornali di oggi. E allora, per quanto riguarda appunto le vicende di cronaca, naturalmente la decapitazione del terzo ostaggio da parte dell'ISIS tiene banco su molti giornali, quelli che almeno sono riusciti a darne un trattamento abbastanza ampio, considerando anche l'orario in cui si è diffusa la notizia, un orario in cui qualche giornale era già in stampa. Gli altri aspetti invece, quelli più di prospettiva della settimana che si apre sono caratterizzati da vicende sostanzialmente italiane e soprattutto la riforma del lavoro, come abbiamo detto prima della interruzione per le informazioni sul meteo, e anche la riforma della giustizia, che è un altro tema che tiene banco con le polemiche tra il ministro Orlando e i magistrati. Partiamo proprio dalla riforma del lavoro, ci eravamo lasciati qualche minuto fa appunto sulla riforma del lavoro. Dal Sole 24 Ore di oggi, mentre sul Messaggero, come dire, Renzi fa mostra di voler accelerare, in qualche modo il resoconto che ne fa Claudio Tucci è un pochino più prudente, perché spiega Claudio Tucci sul Sole 24 Ore martedì, riprende il confronto in commissione lavoro del Senato sull'ultimo articolo della delega, quindi il mandato che il Parlamento darà al governo per poi rivedere la normativa sul lavoro. In mattinata ci dovrà essere un incontro martedì mattina tra governo e parlamentari del Partito Democratico di Senato e Camera per trovare una soluzione unitaria, soluzione che dovrà poi essere condivisa con l'ala centrista della maggioranza, quindi Nuovo Centrodestra, Scelta Civica, i Popolari e l'SVP. E anche ieri, dice Tucci, si sono succeduti contatti telefonici. Allora, quali sono i tempi? Ce la facciamo per ottobre, come dice al Messaggero Renzi, oppure no? A scorrere il resoconto che fa il collega Tucci sul Sole 24 Ore di questa mattina, c'è da essere un po' più prudenti, perché appunto l'accordo, l'intesa sul superamento dell'articolo 18 non sembra così a portata di mano. E comunque si punta a chiudere in sede referente, quindi soltanto un primo esame in commissione questa settimana, settimana che si apre domani, e poi si dovrà passare al voto in aula, quindi alla Camera, e poi probabilmente tornare di nuovo per la seconda lettura al Senato, in una lettura, come si dice, blindata, cioè senza più possibilità di modifiche, e poi naturalmente ci sarà tutta la fase attuativa. Insomma, non sembra così facile una approvazione di tutto quanto il provvedimento entro ottobre, però staremo a vedere. Insomma, c'è anche da immaginare che qualche volta la politica sia capace, come abbiamo visto, di accelerazioni importanti. Quello che, tra le cose che però sono attese questa settimana, la prossima settimana, c'è anche il cosiddetto bazooka della Banca Centrale Europea. Proviamo a guardare avanti, appunto, perché di Europa si parla molto sui giornali di oggi, ma se ne parla anche e soprattutto per la, come dire, la tirata d'orecchio, comunque lo sguardo non benevolo che il commissario Katainen ci ha riservato con quella frase, appunto, in cui ci invita a fare le riforme e non ad annunciarle. Sul Sole 24 Ore di oggi Maximilian Cellino ci aggiorna su questo bazooka della BCE, un bazooka da 400 miliardi, non è una questione bellica, anche se ha un nome bellico, è la prima asta cosiddetta TLTRO, una sigla che sta per operazioni di rifinanziamento mirate, di lungo termine e mirate. Che significa mirate? Significa che la BCE fornirà credito, però dovrà essere poi questo credito messo a disposizione per la ripresa. Giovedì appunto ci sarà questa prima asta per il credito alle banche, i fondi sono vincolati alla erogazione di prestiti alle imprese, quindi vengono erogati dei fondi alle banche, ma a condizione che poi questi fondi vadano a confluire nell'economia reale. C'è un potenziale di 400 miliardi. E tra l'altro ci ricorda Maximilian Cellino che questo targeted, quindi questi obiettivi, questi fondi vincolati, sono la novità di questa potente, almeno così ci si augura, arma pronta a scattare, perché a differenza di precedenti operazioni di finanziamento, operazioni ormai quasi 3 anni fa, queste saranno vincolate appunto alla concessione di prestiti alla clientela. L'ammontare che ciascuna banca europea può richiedere pari al 7% della sua esposizione al settore non finanziario. Sono esclusi finanziamenti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, quindi non riguarda sostanzialmente la cessione di mutui, perché si vuole evitare di costruire in qualche modo una sorta di bolla con questo finanziamento, ma invece dare un più ossigeno all'economia reale, quindi alla produzione. Questo è l'intento con cui la Banca Centrale Europea ha avviato questo intervento, appunto, di cui giovedì ci sarà la prima asta. E restando poi sul Sole 24 Ore, un'ultima segnalazione dal nostro giornale, perché è finalmente andato in Gazzetta Ufficiale, forse l'avete già appreso ieri, il cosiddetto decreto legge sblocca Italia. Il numero di riferimento di questo decreto legge è il 133, è un decreto legge appunto in cui sono contenute diverse misure sia di finanziamento di grandi opere sia di come dire, semplificazione burocratica per quanto riguarda gli interventi in casa. Non ve li riassumo tutti, ma trovate alcune prime indicazioni oggi nella pagina di norme e tributi del Sole 24 Ore in edicola, che riepiloga anche appunto alcuni interventi tra quelli dedicati alle infrastrutture e quelli dedicati proprio agli edifici. Tra l'altro, apprendiamo appunto che diventa più facile cambiare la destinazione d'uso dell'edificio, le categorie sono state ridotte a 4 e poi i bed and breakfast vengono trattati come le abitazioni. Inoltre, da martedì il Sole 24 Ore presenterà una serie di guide proprio a questo decreto legge Sblocca Italia, che è stato, come ricorderete, approvato negli ultimi giorni di agosto da parte del governo, poi ha avuto una lunga fase di gestazione prima di raggiungere finalmente la Gazzetta Ufficiale del 13 di settembre, quindi da ieri questo decreto legge è effettivamente efficace, è in vigore. Questo particolare dei contenuti dello Sblocca Italia sul Sole 24 Ore di questa mattina. Veniamo ad altre vicende che troviamo sui giornali, restiamo però appunto in materia di riforme, perché insieme al decreto Sblocca Italia, qualcuno ricorderà, è stato approvato anche un decreto legge sulla giustizia, decreto legge che sta facendo pesantemente litigare magistrati e il ministro, e c'è un interessante articolo oggi di Bruno Tinti, magistrato, ex magistrato in realtà, non ora attualmente in pensione, sul Fatto Quotidiano, in cui si spiegano alcune cose molto interessanti anche per non gli addetti ai lavori. Dice Tinti in modo molto diretto: Renzi, tu di giustizia non capisci niente, non è colpa tua perché è un mestiere che non hai mai fatto, ma è colpa tua perché non ti informi o ti informi dalle persone sbagliate. Siccome io ne capisco perché ci ho lavorato per 40 anni, ti spiego in breve cosa non va e cosa si deve fare. Se vuoi approfondire, scrivimi, ci vediamo, io ti chiarisco come stanno le cose. Allora, in questo articolo si legge, tra l'altro: il processo civile non funziona, dice, è troppo lungo perché la procedura è sbagliata, e quindi chiunque preferisce pagare tra 8 anni anziché oggi. Per farlo breve ed efficiente bastano un atto di citazione in cui si spiega tutto e si chiedono le prove, un atto di risposta in cui si confuta e si chiedono le prove, e poi il potere del giudice di escludere quelle prove che non sono necessarie. Anche per il processo penale, dice Bruno Tinti sul Fatto Quotidiano di oggi, non funziona perché il codice di procedura, che è sbagliato, ci sono in realtà troppi gradi di giudizio tra indagini, tribunale della libertà, che può essere replicato n volte, udienza preliminare, tribunale, appello, cassazione, e anche qui, dice Tinti, non dare retta agli avvocati, più gradi di giudizio, più lavoro, più soldi. E infine, lascia perdere questa cosa delle ferie troppo lunghe dei magistrati, spiega Tinti, i tribunali non chiudono. Quella che viene sospesa per ferie dal 1 agosto al 15 settembre è l'attività che richiede l'intervento di un avvocato, così lui può andarsene in ferie. I termini entro cui depositare le sentenze invece non sono sospesi, spiega Bruno Tinti. Quindi questa polemica sulla 45 o 30 giorni di ferie dei magistrati sembra un pochino malposta, almeno a leggere questo articolo di Tinti oggi sul Fatto Quotidiano. In primo piano. E allora ancora una buona domenica da Mauro Meazza e buona domenica naturalmente anche a Peter Bescapè questa mattina in regia per questa segnalazione, queste segnalazioni delle notizie che trovate sui quotidiani in edicola questa mattina. Abbiamo parlato di riforme, riforma del lavoro, riforma della giustizia, due temi che stanno agitando il dibattito italiano. Riforme perché naturalmente anche l'Europa ieri è tornata a incalzare la nostra agenda dicendo dovete fare queste riforme. Allora soprattutto è la riforma del lavoro, naturalmente quella a cui si pensa, posto che sulle pensioni effettivamente abbiamo già dato a fine 2011 con un innalzamento deciso dell'età pensionabile, quindi in questo momento la maggiore urgenza sembra essere proprio quella che riguarda il lavoro. E poi la giustizia, altro filone di cui parlavamo prima di fermarci per le informazioni sulla viabilità. Tra l'altro il giornale dà spazio proprio alle vicende Italia-Europa, ci risiamo, aria di commissariamento, scrive senza mezzi termini il giornale oggi in prima pagina, e spunta un'altra tassa. Qui in realtà è un prelievo, si fa riferimento a un contributo di solidarietà che è stato previsto dalla legge Fornero di riforma del lavoro per coprire i bisogni di un fondo di solidarietà che dal 2016 sostituirà la cassa in deroga. È uno 0,5% sul lordo dello stipendio, per due terzi a carico del datore, per un terzo a carico del dipendente. Ricorda Giuseppe Marino, sulla carta questo nuovo salasso sarebbe dovuto partire da gennaio, ma alle nostre latitudini, perfino tra il dire e il tassare, c'è di mezzo il mare della burocrazia. Per chi prende 2000 euro al mese, è la previsione che trovate oggi sul giornale, questo taglio può superare i 30 euro. Questo sul giornale, che appunto unisce sia questo nuovo contributo sia le vicende appunto europee. E con questo incubo commissariamento, nell'analisi affidata a Marcello Zacchè, il cubo commissariamento se non si fanno le riforme. Il vicepresidente dell'Unione Europea Katainen ha messo l'Italia nel mirino. Taddei del Partito Democratico giura però che l'Italia non corre alcun rischio, così dichiara appunto al giornale Filippo Taddei, che è responsabile economico del Partito Democratico e consigliere di Renzi. Si tratta, dice Taddei, di un momento di normale dialettica che è in corso con i commissari europei che, essendo appunto appena nominati ma non ancora insediati, stanno prendendo le misure, così scrive Zacchè sul giornale all'esecutivo italiano. Di sicuro, continua però Zacchè, dall'Ecofin di Milano si esce con posizioni immutate. L'Europa ci chiede le riforme, noi le promettiamo. L'Italia ha un'agenda di riforme molto ambiziosa, ha detto ieri il commissario agli affari economici Jyrki Katainen, falco finlandese filo Merkel, che nella nuova commissione avrà ancora più peso. Ma, e qui riprende il virgolettato di Katainen, se tutte le cose che ha in programma di fare verranno implementate, posso immaginare che l'economia avrà un forte impulso reale. Il gioco sta tutto qui, tanto che Piercarlo Padoan, ministro dell'economia, ha detto che c'è l'urgenza di accelerare le riforme il più possibile. Questo l'analisi affidata a Marcello Zacchè oggi su il giornale per quanto riguarda le vicende appunto Italia-Europa, il contrasto. Forse contrasto è una parola forte, però diciamo i punti di frizione tra Italia e Europa sulla necessità di riforme o su invece porre l'accento su misure per la crescita. Allora, misure per la crescita, tra l'altro tra le misure per la crescita c'è anche la scuola che di fatto dalla prossima settimana, da domani, riprende un po' in tutta Italia. E allora dalla stampa di oggi apprendiamo che c'è un boom di iscrizioni tra le scuole superiori per quanto riguarda gli istituti professionali, ma in particolare gli istituti agrari, che registrano un più 12%, e ci sono comunque, scrive Maria Corbi sulla stampa, tendenze positive per tutti gli indirizzi legati ad ambiente, alimentazione e turismo. Ce lo dicono i dati di uno studio che è stato presentato a una Summer School sul Made in Italy promossa da Coldiretti Giovane Impresa, e in collaborazione con l'Osservatorio sulla criminalità nell'agroalimentare. Sono stati esaminati i laureati provenienti da tutte le università italiane e si segnala appunto che nel nuovo anno scolastico, questo che sta iniziando in questi giorni, si sono iscritti al primo anno degli istituti tecnici e professionali della scuola secondaria e secondo grado, statali e paritarie, 264.000 e più giovani. Tra questi il 24%, quindi uno su quattro, ha optato per agricoltura, enogastronomia, ospitalità, alberghiera. Quindi 63.000 nuovi iscritti contro i 60.000 che c'erano stati lo scorso anno. È un boom che poi trascina anche le scuole professionali per i servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, nonché quelli che si indirizzano verso appunto enogastronomia e ospitalità alberghiera, anche qui una crescita del 5%. Quindi nella pagina accanto Giuseppe Bottero ci segnala la rivincita in qualche modo dell'apprendistato, viaggio tra gli istituti professionali che sfornano giovani pronti per entrare in azienda sul modello tedesco. Restiamo sulla stampa perché ci dà l'occasione di parlare di un altro evento della settimana che si apre domani, cioè il referendum in Scozia. 5 giorni per non perdere la Scozia, scrive Alessandra Rizzo da Londra. Giovedì referendum sull'indipendenza, il fronte del no rimonta, ma il paese resta in bilico. E tra l'altro la stampa completa questo servizio anche con una sguardo storico affidato a Vittorio Sabadin sulla fine dell'indipendenza scozzese, l'unione con Londra agli inizi del 1700. In realtà, appunto, ricorda la stampa, un'unione nata per ripianare il buco che era stato lasciato, il problema di conti, insomma, che era stato lasciato da un'avventura coloniale. Ancora sulla stampa, in ultimo, per segnalarvi sulla notizia un po' di questa mattina, la notizia che prevale su tutte le altre, la decapitazione del terzo ostaggio da parte dell'ISIS, l'ampio servizio di Francesco Semprini da New York. Ricorda questo nuovo ostaggio decapitato, David Cawthorn Haynes, aveva 44 anni, era in Siria con un'organizzazione umanitaria francese, la ACTED, con cui distribuiva aiuti alla popolazione, ed era stato rapito insieme a un collega italiano, Federico Motka, che poi è stato liberato. L'ultima volta era comparso nel filmato che mostrava l'uccisione, la decapitazione dell'ostaggio americano Steven Sotloff, il giornalista Steven Sotloff, e come lui indossava una tuta arancione. Questo il resoconto che dà Francesco Semprini da New York, e questa è anche la nostra ultima segnalazione per questa mattina. Grazie a Peter Bescapè per l'assistenza in regia e a tutti voi una buona domenica.